Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Buongiorno e ben trovati a Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. La puntata dedicata al lavoro, al lavoro inteso come professioni, le nuove professioni che questa economia sociale, che la green economy sta ridisegnando e che non riguardano soltanto il mondo dell'ambiente o del risparmio energetico. Si stanno ridefinendo gli stili di vita, forse gli stili di consumo. Siamo avviati verso grandi cambiamenti. Professor Andrea Cerroni dell'Università Milano Bicocca, buongiorno. Buongiorno. Questi grandi cambiamenti del sistema economico in realtà, per cui è prefigurabile che anche il lavoro, le professioni e quindi l'università si adegueranno a questi nuovi mondi. Certamente, la transizione che stiamo vivendo è quella che, diciamo, da un sistema economico e in generale sociale, anche una sensibilità diffusa dell'opinione pubblica, in cui un tempo ormai lontano l'ambiente era semplicemente messo in parentesi, poi è diventato una limitante dello sviluppo, poi è diventata una risorsa, ma ancora intesa come ambiente naturale. Adesso la frontiera è tradurre l'ambiente non come stato di natura dell'essere umano, ma come ambiente culturale, umanizzato. E dunque tutti i lavori in grado di individuare, attivare, rendere fruibili, valorizzare le risorse di questo ambiente culturale, che è la sintesi fra la natura e l'opera dell'uomo nel corso dei millenni. Basta pensare alle nostre campagne più belle della Toscana, piuttosto che i vigneti del Piemonte, piuttosto che le coste, ove non deturpate ma diciamo incorniciate dall'architettura di tanti paesi, della costiera amalfitana e di tutto il resto del nostro paese, ecco, per renderci conto che le bellezze, le risorse, il petrolio del XXI secolo è in questa sintesi fra natura e cultura, questo equilibrio che potenzia tanto l'ambiente naturale quanto le capacità umane di aggiungere valori, creare nuovi valori. E forse su questi temi per una volta ci sentiamo un po' più a nostro agio che non rispetto a quelli digitali o ai laboratori fantastici americani che inventano nuovi mondi. Forse questa specificità italiana della cultura, dell'ambiente, della bellezza forse, no? Ci consentiranno di avere un ruolo più importante nel disegnare questo futuro di questa nuova economia. Certamente, io penso che, e di questo ne sono profondamente convinto, che l'Italia, il Mediterraneo in generale, l'Italia proprio in particolare, hanno una grande chance, e cioè quella di saper coniugare in un modo, direi, rivoluzionario, sviluppo, benessere e buon funzionamento della società e valori, tradizione e innovazione, superando quella cesura tutta moderna e durata alcuni secoli fra comunità, cioè valori, identità, e società, cioè organizzazione razionale, divisione del lavoro, funzionamento, efficienza, eccetera. E questo però presuppone un passaggio che è quello al quale tengo particolarmente, cioè che se la comunità è vero, è quella nella quale radichiamo le nostre identità, dobbiamo tradurre le identità che tradizionalmente pensiamo come identità di provenienza, che dunque escludono tutti gli altri che non hanno il nostro percorso alle spalle, trasformare questa identità di provenienza in una identità di destinazione, quindi una condivisione, progetti per il futuro, e quindi è un'identità inclusiva, un'identità completamente nuova, e solo questa può essere all'altezza di una società che non solo italiana o mediterranea, ma sempre di più sarà globale. Grazie professor Cerroni. Questa identità di cui parla il professor Cerroni è probabilmente uno dei primi elementi a essere rivisitati nella nuova economia sociale, con molte idee, tante suggestioni e anche qualche velleità, ovviamente, come sempre in questi casi. Intanto Manager Italia, però, che è una delle associazioni forse più rappresentative dell'universo così critico in questo momento della figura del manager, Tommaso Sasu, vicepresidente in linea con noi, buongiorno. Buongiorno. Ha proprio, credo di poter dire, di avere cercare di interpretare in qualche modo questo disagio / opportunità in un programma che si chiama Fermenti Culturali e che, fra le altre cose, ci ha incuriosito, definisce la figura del manager 2.0. Sì, noi crediamo, buongiorno intanto a tutti gli ascoltatori, Manager Italia è l'associazione, diciamo, di riferimento dei dirigenti quadri professional del commercio, il trasporto, il turismo, insomma del terziario avanzato, e rappresentiamo in Italia circa 32.000 associati. Noi crediamo appunto che debba rafforzarsi in Italia, come anche dicevano forse i colleghi, una cultura di impresa coerente con il nuovo anche scenario internazionale in continua evoluzione. E oggi per cultura di impresa non significa solamente capacità di rischio, cultura del cambiamento, come ormai, diciamo, è noto ai più, ma anche quello di capire e gestire l'innovazione, che è sempre uno degli elementi più importanti. Per, diciamo così, fare la necessaria cultura del cambiamento richiede quindi una disponibilità mentale a farsi, noi diciamo, contaminare, no? Da competenze, culture e contesti più vari. E in questo senso il gruppo Fermenti Culturali è uno dei vari gruppi che abbiamo costituito all'interno della nostra associazione, vuole proprio dare un contributo a questa necessità di diffusione di capitale intellettuale che proviene anche dalle più disparate esperienze e competenze. E in particolare stiamo soffermando sulle tecnologie, perché ci siamo resi conto che non è poi così vero che i manager professionisti in genere sono così capaci di gestire appieno le potenzialità, le capacità di quello che viene offerto dalla tecnologia. Ecco, infatti ho letto che al termine manager 2.0, che è chiaramente molto suggestivo e molto espressivo, avete affiancato anche il termine BlackBerry Oriented, il famoso BlackBerry di Obama, per intenderci. Sì, quindi questo, diciamo, in realtà era uno degli argomenti che vengono, cioè, è una serie di incontri che appunto vengono definiti sotto questo manager 2.0, per riferirsi ovviamente all'attinenza con la rete, e uno di questi erano proprio legato all'utilizzo dei palmari multimediali che sono sempre più diffusi tra i manager. Senta, questa è sicuramente una virtù di Manager Italia, la sua, di organizzare Fermenti Culturali, ma è anche una necessità nel momento in cui sono proprio i manager in questa fase di crisi economica globale ad essere messi non sotto accusa o in discussione, ma sono quelli che rischiano di più, anche per una questione contrattuale. Quindi in Manager Italia c'è una forte sofferenza in questo momento. Assolutamente, è necessario sempre distinguere tra i top manager, che sono quelli, diciamo, più invisi al pubblico, che ovviamente ne ha casi eclatanti. I manager in Italia sono invece una categoria molto più modesta, tra virgolette, rispetto a questi che vengono rappresentati come, diciamo, con gli stipendi d'oro, eccetera. Il manager ovviamente ha grandissime responsabilità, soprattutto non ha particolari ammortizzatori sociali, come voi sapete sono contratti particolari, quelli di dirigenti, e deve chiaramente, per essere competitivo e quindi rimanere il più possibile legato a un rapporto di fiducia con la propria azienda, essere ovviamente molto aggiornato non solo sulle proprie competenze, sugli skills classici, insomma, che riguardano la sua professione all'interno delle aziende, ma ecco, essere molto aperti a 360 gradi a tutte quelle sollecitazioni, stimoli, ecco, fermenti culturali, diciamo, che possano dargli questa capacità, questa competenza di dialogo con tutte le strutture interne ma anche esterne delle aziende, con gli stakeholders, eccetera. Noi abbiamo attivato contatti anche con le università, con l'Università di Tor Vergata, abbiamo messo in piedi una master sul turismo per dare uno spazio anche ai nostri dirigenti di espressione, ma anche di rinnovamento. Ovviamente partecipiamo con dei blog sulla crisi, sullo sviluppo, sui social networks, quindi siamo assolutamente aperti a interagire con tutte quelle aree di professionalità, di produttività del paese che rendano il manager, il dirigente, il professionista sempre competitivo e sempre ovviamente pronto alle sfide che ogni giorno vengono ad essere, diciamo, nel nostro lavoro. Grazie Tommaso Sasso. Queste sfide che sono state, come dire, in qualche modo esasperate dalla crisi, è proprio vero che questa crisi sta rimettendo in circolo energie forse sopite, probabilmente un po' di pigrizia, diciamo, strutturale, che questa crisi ha un po' scosso, e come vedete, come stiamo vedendo in queste prime puntate di Ferribot, c'è un fermento notevole e grandi intelligenze che hanno riliberato le proprie risorse. C'è una figura fra i tanti manager che abbiamo trovato nella nostra ricerca, i facility manager, i water manager, acqua ovviamente e non altro, i mobility e i risk manager, ce n'è uno in particolare su cui vogliamo concentrarci, di cui parleremo anche in seguito in altre puntate, che è il CSR Network Manager, cioè il responsabile in azienda del Corporate Social Responsibility. Sebastiano Renna, che è in linea con noi, buongiorno. Sì, salve. È il presidente di una relativamente giovane CSR Network Manager che riunisce queste figure professionali. Ferribot, in viaggio verso l'economia sociale. Ecco, Sebastiano Renna, presidente del CSR Network Manager, che nasce per iniziativa di Altis, l'Alta Scuola Impresa e Società dell'Università Cattolica, rappresenta questa figura che per molti forse non è così, è ancora così nota. Quindi in due battute, lo so che non è facile, Presidente, però in due battute, che cos'è, chi è il CSR Network Manager in azienda? Il Corporate Social Responsibility Manager è una figura, come dicevi, nata da poco tempo, affermatosi da poco tempo, ma che di fatto si occupa, nelle sue varie sfaccettature, diciamo, il tratto di congiunzione è rappresentato dal fatto che una persona che si relaziona con i pubblici, sia interni che esterni dell'azienda, per fare in modo che l'azienda possa creare un ambiente positivo, sinergico, di sintonia con i soggetti che animano il suo ambito di riferimento. La sua estrazione è variegata, nel senso che ci sono CSR manager che vengono dall'area qualità, sicurezza e ambiente, CSR manager che vengono dal marketing, dalla comunicazione, dalle risorse umane, dalla finanza, dalla pianificazione e controllo di gestione, quindi non c'è un'unica estrazione professionale, sono figure che all'interno delle aziende sono state individuate per occuparsi di determinati temi che hanno a che fare con le criticità che l'azienda può incontrare portando avanti il proprio business e che poi un po' alla volta hanno arricchito le proprie competenze fino a diventare appunto un po' i punti di riferimento di tutta l'attività appunto di corporate social responsibility. Ecco, la sensazione, Presidente, è che il CSR o CSR detta in italiano abbia con questa crisi avuto una fortissima rivalutazione, cioè se prima che esplodesse la crisi era un'eccellenza, come dire, uno spirito di nobiltà dell'impresa, oggi invece è diventata centrale, cioè un'azienda deve essere responsabile nel nuovo range dell'economia sociale, non puoi che esserlo, cioè è diventata non più un'eccellenza appunto, ma una necessità. Certo, anche perché la crisi rappresenta un paradigma di quello che è un po' l'evoluzione dei tempi, al di là del fatto che ci sia stata una crisi specifica, è un po' l'ambiente economico di riferimento in cui operano le imprese che sta cambiando, sta mutando, sta diventando sempre più complesso, sempre più turbolento, e quindi diciamo che operare in direzione della costruzione di relazioni positive, tenere aperta una finestra di dialogo continuo, cercare di adattarsi all'ambiente è un modo anche per l'azienda per prosperare, per proiettare nel futuro la propria capacità di successo, e quindi sicuramente la crisi sta rimettendo sotto i riflettori, dei riflettori positivi, questa figura di soggetto che è un po' al confine tra l'azienda e il mondo esterno e che filtra in entrata i segnali deboli che vengono dall'esterno e allo stesso tempo cerca di rappresentare all'esterno quanto di buono l'azienda fa per generare valore sociale. Grazie Presidente di CSR Network Manager, un manager che quindi sale di livello nella gerarchia d'impresa a causa, grazie a questa crisi, e si affianca un po' all'amministratore delegato, al board che gestisce l'azienda, perché un'azienda che deve essere, oltre che opportuno che lo sia, ma che deve essere responsabile, deve necessariamente vedere nel CSR Network Manager un elemento di riferimento. Quindi il vertice di questa azienda ha in qualche modo bisogno di assistenza da questo punto di vista, e Fernando Salvetti, che è presidente di Logos Knowledge Network, di assistenza ai vertici dell'azienda se ne intende. Salvetti, buongiorno. Io lo so che non è solo questa la sua attività di Logos Knowledge Network, che è una vera e propria multinazionale europea, ma è su questo che volevo concentrarmi. Chi è al vertice di un'azienda deve prendere delle decisioni importanti, a volte talmente importanti da avere necessariamente bisogno di un sostegno. Questo è vero? Assolutamente sì. Soprattutto attraverso psicologi, che poi in azienda possono chiamarsi coach, counselor, piuttosto che mentor, o a volte addirittura tutor. E questo tipo di figura, che in Italia non mi sembra sia molto diffusa, con questa crisi chiaramente stanno facendo grandi affari, mi sembra. No, grandi affari no, nel senso che anche questo tipo di figura in qualche modo è toccato dal taglio, dal congelamento dei budget. Discreta attività nel centro-sud Europa inizia a farla, molta attività in nord Europa, intendo Europa occidentale, soprattutto Nord America, da alcuni decenni sì, tantissima. Dal suo punto di vista ovviamente è un ruolo importante, ma uno sforzo di estraniamoci dalla sua attività. È importante che ci sia un'angolatura visuale diversa quando si devono prendere queste decisioni così rilevanti. Può essere un grande aiuto nel momento in cui riesce a far considerare, ponderare gli stessi fattori oggetto della decisione da più prospettive, da più punti di vista, lavorando anche sul piano del contenimento a volte delle emozioni, soprattutto di quelle negative. Ecco, per esempio, giusto, non vogliamo certo sapere il nome e il cognome, ma giusto per capire, in questo momento, Salvetti, lei sta svolgendo questo ruolo? Sì. Non io direttamente, i vostri consulenti, e in quale ambito siete impegnati? Banche, assicurazioni, alimentare, farmaceutico. Ecco, banche e assicurazioni, mettiamo il dito nella piaga, no? Assolutamente sì, infatti ci sono anche situazioni particolarmente problematiche, soprattutto per chi si trova in posizioni di vertice con responsabilità legate alla gestione dei rischi o degli asset, e quindi con decisioni di investimento. Quindi alla telefonata SOS voi rispondete con un'equipe di professionisti che... Un'equipe o un singolo, dipende molto dal bisogno specifico e dall'accordo che andiamo a definire con il cliente. Solitamente psicologi, psicosociologi con competenza effettiva in termini di management e di supporto al top o a volte anche al middle management. E immaginiamo che negli Stati Uniti, dove il segmento è più sviluppato, lì sì ci sarà stata una frenetica attività, a giudicare anche dalle immagini che i media hanno rimandato dell'esplosione della bolla finanziaria. Ma frenetica forse, non saprei. Sicuramente abbiamo domanda. Noi seguiamo aziende europee in giro per il mondo, quindi anche negli Stati Uniti. Non seguiamo direttamente clienti originari degli Stati Uniti. Domanda c'è, situazioni problematiche da gestire, anche persone da aiutare, da supportare, soprattutto sì, per rendere un po' più sostenibili alcune posizioni manageriali che possono avere molta difficoltà in questo momento. Logos Knowledge Network vive in Europa e quindi lei personalmente ha una visione, come dire, meno italiana e più europea del disagio e delle problematiche che si stanno aprendo su questa crisi. Anche lei vede un modello italiano da questo punto di vista, come dire, critico? Io sono un italiano che qualche anno fa ha deciso di fuggire dall'Italia, vivo tra Parigi e la Svizzera e reputo molti modelli italiani assolutamente critici e spesso insostenibile anche solo l'immagine dell'Italia all'estero sui mercati dei servizi evoluti. Quindi una visione molto pessimistica rispetto al marchio Italia nell'ambito dei servizi. Beh, visto che non la butteremo certo nel cestino totalmente, avrà anche un'idea su come si potrebbe invertire la tendenza, per esempio? Beh, siamo maestri effettivi di flessibilità cognitiva e di capacità di adattamento. riuscissimo a integrare flessibilità cognitiva, capacità di adattamento con maggior rigore nei processi aziendali, in qualche modo potessimo fondere l'Italia con la Svizzera, probabilmente avremmo dei modelli di sviluppo molto forti. Grazie Fernando Savetti, ne parleremo con i politici, potrebbe non essere male questa idea di fondere la creatività e tutti i vantaggi dell'italianità con il rigore e la precisione, classica, è quasi banale dirlo, degli svizzeri. Intanto però qualcosa di buono riusciamo a farlo proprio laddove l'aspetto emozionale fosse più prevalente, e che è il mondo del no profit. Con noi c'è al telefono Dario Bolis, responsabile della comunicazione di Fondazione Caripro. Buongiorno Bolis. Eccoci qua. Noi siamo molto bravi invece sul il settore del no profit è importante all'interno, cioè importante rispetto a quello che è la dinamica economica e sociale del nostro paese, ma anche significativa a livello internazionale come impegno. Quando si parla di no profit, forse troppo spesso si pensa a quei giovani volenterosi impegnati in compiti lodevoli, ma scarsamente remunerativi in termini di salario e magari anche di possibilità professionali. Ma il terzo settore evidentemente rappresenta invece una fonte di occupazione importante in Italia, tutt'altro che trascurabile. Io credo che, perlomeno dall'osservatorio privilegiato che abbiamo come Fondazione Cariplo, che incontra ogni anno più di 2000 enti no profit con cui realizza i propri progetti, credo di vedere delle opportunità importanti, e oggi il mondo del no profit rappresenta il 4% della forza lavoro italiana, cioè circa 1 milione di dipendenti. Ecco, forse ci sono dei nei e anche delle opportunità da cogliere in questo settore, no? Proprio per entrare nel merito, noi abbiamo parlato di manager in questa puntata da diversi punti di vista, e proprio il no profit, lo stava accennando, ha forse una problematica, nel senso che non ci sono gli uomini preparati, gli esperti che possono impegnarsi, e forse questa crisi invece può creare, fra le altre cose, anche uno spostamento, cioè, per dirla in parole più povere, i manager che non hanno più lavoro, forse abbassando le loro richieste economiche, possono essere di grandissimo aiuto nel mondo del no profit. Ci sono, secondo me, c'è una verità, che il no profit oggi appare spaccato in due, cioè ci sono organizzazioni che potrebbero tranquillamente insegnare al profit e altre invece che sono ancora molto molto indietro. Ecco, forse su queste la professionalità di chi è uscito dal mondo del lavoro, perché appunto la crisi lo ha costretto, potrebbero essere un'opportunità importante per far crescere il livello del no profit, che invece è un settore in crescita. Ecco, io penso, se pensiamo a che cosa si occupa il no profit oggi, dicevamo prima, non sono quei giovani volenterosi a cui immaginiamo, ma ad esempio ci sono case di cura, case di riposo, cioè queste sono attività che, se le immaginiamo nel profit, sappiamo che richiedono competenze gestionali molto importanti, e quindi credo che proprio questa attività, se professionalizzata, può essere un volano di potenziale sviluppo nel mercato del lavoro. Va detto però che anche il no profit sta risentendo di questa crisi, quindi occorre capire se il mondo del no profit è in grado anche di raccogliere questo bacino di persone che sono uscite dal mondo del lavoro nel campo del profit. Immagino, fra l'altro, a proposito di no profit e di crisi, che se le banche, se il mondo finanziario fa fatica a sostenere e a proteggere il business di imprese che hanno magari dei patrimoni a garanzia, immagino che il no profit invece abbia, al contrario, stili maggiore diffidenza nelle banche. Anche Fondazione Caripro ha dovuto tirare un po' la cinghia con questa crisi. No, su questo fronte invece Fondazione Caripro ha fatto una scelta, direi, coerente. Nel 2008, l'ultimo anno di riferimento, ha addirittura fatto il record delle erogazioni, cioè 211 milioni di euro rispetto ai 189 milioni di euro dell'anno precedente. Questo facendo utilizzo dei fondi di riserva che erano stati proprio appositamente accantonati per momenti di magra, come appunto è stato lo scorso anno. C'è il problema, che diceva lei, dell'accesso al credito, forse, perché gli enti no profit, così come il profit, a volte per completare le risorse che ha bisogno, che per certi versi arrivano da magari elargizioni come quelle di Fondazione Cariplo o di enti pubblici, hanno bisogno di accedere al credito, e devo dire che sono sempre di più gli organismi bancari che cercano modalità per trovare anche clientela nel mondo proprio. Servono però le garanzie, e molto spesso gli enti no profit non riescono a fornire. Grazie Dario Bolis, abbiamo parlato di no profit con lui, e chiaramente ovviamente quando si parla di economia sociale è evidente che questa parte del nostro sistema ha particolare rilevanza. Abbiamo finito con Ferri Bot la puntata sul lavoro, ci risentiamo, la prossima sarà dedicata alla bioarchitettura. Grazie, arrivederci.